Zanzara Khmer su Torino. Zanzara Khmer su Milano. Zanzara Khmer su Firenze. Le zanzare sono tante, le zanzare sono amore, le zanzare in amore. Le zanzare di Pol Pol.